America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana perché ieri c'è stato il grande lancio alla National Gallery dell'anno dedicato alla cultura italiana negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi. Ebbene, la giornata è arrivata, ma vorrei dirvi prima dell'importante comunicato della Federal Reserve di ieri e della chiacchierata che poi ha fatto Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve, in materia di tassi di interesse, interventi per sostenere la crescita economica e punti di riferimento per capire quale sarà il percorso di navigazione monetaria della Banca Centrale Americana. Against a macroeconomic backdrop that includes both high unemployment and subdued inflation, the FOMC will maintain its highly accommodative policy. Ben Bernanke ha fatto notizia ieri, ha annunciato un nuovo piano di acquisti di bond americani per 45 miliardi di dollari al mese circa, dunque buoni del tesoro americani. Qual è l'altro punto importante di ieri? Che per la prima volta Ben Bernanke ha dato delle indicazioni precise al mercato. Ha detto che i tassi di interesse bassi resteranno su questi livelli, quelli che ha confermato ieri tra lo 0 e lo 0,25%, fino a quando il tasso di disoccupazione americano resterà al di sopra del 6,5% e fino a quando l'inflazione resterà al di sotto del 2,5%. Bernanke nella conferenza stampa ha poi spiegato che non basterà che uno dei due indicatori si muova al di sotto del livello prestabilito per aumentare i tassi di interesse. Dunque si riserva dei margini di manovra. La borsa è rimasta più o meno invariata, ma direi che questa è stata la grande notizia di ieri. Una delle più grandi arie di Verdi, tratta dalla Traviata, Amami Alfredo, e un sottofondo musicale a un video che è stato presentato ieri alla National Gallery per presentare l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Ha parlato il direttore della National Gallery, sono intervenute varie personalità anche dal Dipartimento di Stato e ha parlato soprattutto il ministro Terzi. Sentiamolo. 2013 year of the Italian cultural industries will present the most modern and dynamic features of our country. Ecco, in questo intervento in inglese il ministro spiega che il 2013 sarà una vetrina delle realtà più moderne e dinamiche del nostro paese, con una concentrazione sulla ricerca e sull'innovazione, dunque non soltanto arte e cultura, opere d'arte come quella che è stata inaugurata ieri alla National Gallery, e cioè la mostra del David Apollo di Michelangelo, che non era venuto in America, pensate, dal 1949. E dunque il focus è anche un po' economico, tecnologico, del design, e questo il messaggio che ha voluto dare il ministro Terzi. Ieri ha aggiunto che dopo il successo delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'obiettivo è ora quello di coinvolgere attivamente gli americani e in particolare i giovani, anche per avvicinarli alla nostra lingua, alla lingua italiana. The production of art, culture, scientific discoveries and innovation throughout Italy's history is nothing short of amazing. Enrico Tommaso Cucchiani, amministratore delegato di Banca Intesa, che insieme a Leni ha dato un forte appoggio per far sì che il David Apollo di Michelangelo venisse qui alla National Gallery a Washington, ha dato un messaggio piuttosto interessante. Ha ricordato che la missione della sua banca è sì economica e finanziaria, ma è anche culturale. Ha ricordato come il Rinascimento resta un punto di svincolo, un punto di riferimento centrale, un contributo essenziale che l'Italia, la cultura italiana, ha dato al mondo. Excellence, beauty, the best. Nancy Pelosi, capo della minoranza democratica alla Camera, ex presidente della Camera, la prima donna a essere diventata presidente della Camera, una delle più grandi italo-americane. L'ho incontrata ieri durante la presentazione al congresso di questo anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Ve lo ricordo, l'anno sarà il 2013, ma formalmente si è già cominciato ieri con l'apertura di questa mostra. Beh, la Pelosi, devo dire, è stata contagiosa nell'esprimere questo suo legame, questo suo sentimento nei confronti dell'Italia. E quando gli ho chiesto che cosa le viene in mente pensando all'Italia, dice: eccellenza, bellezza, insomma, il meglio. Però dice: voglio ricordare che anche qui a Washington, noi eravamo al congresso, in questo tempio della democrazia, gran parte dei dipinti sono opera di Costantino Brumidi, un italiano, e che ogni giorno ci ispira con la bellezza dei suoi lavori, con l'arte con cui ha catturato lo spirito dell'America. Non è stato soltanto Brumidi a dar vita al congresso, sono stati anche degli architetti, ci sono stati anche degli artigiani. Dunque l'Italia, l'arte, il modo di essere italiani è presente ogni giorno nel congresso degli Stati Uniti. Ecco, poi alla National Gallery c'era anche Massimiliano Finanzer Flori. Devo dire, l'ho visto, era lì seduto e aveva un grandissimo Pinocchio, la dimensione era quella di un bambino normale, con questo naso lunghissimo, perché dopo aver fatto i Promessi Sposi in America, adesso partirà con una rappresentazione di Pinocchio. Come per i Promessi Sposi, Pinocchio diventa uno spettacolo teatrale diffuso in 20 stati con 30 repliche in tutti gli Stati Uniti. Allora ve lo devo descrivere, perché qui c'è un Pinocchio a dimensione di bambino naturale in braccio al suo papà. Sì, infatti Geppetto, ma il padre di Pinocchio è il padre di tutte le cose, cioè colui che attraverso le cose trasforma le cose in amore. Una straordinaria storia, attenzione, non per i bambini, è una filosofia per adulti. E chiudiamo col ministro Terzi, che ho intervistato proprio per dare un senso a questa sua missione negli Stati Uniti, ma anche a quello che sarà questo 2013 Italia-USA. Ministro, abbiamo parlato per la prima volta molti mesi fa di questa mostra, non c'era ancora nulla, adesso siete già arrivati a tempo di record. Quando il presidente Monti ne ha parlato per la prima volta durante la sua visita a fine gennaio di quest'anno, ne ha parlato al congresso, l'idea era piaciuta moltissimo. Abbiamo lavorato alacremente, il Ministero e soprattutto l'ambasciata a Washington, tutta la rete diplomatica, consolare, gli istituti di cultura, i trade commissioner negli Stati Uniti. Siamo riusciti a dare una dimostrazione, credo, esemplare di come i progetti lanciati a livello pubblico, a livello governativo, quando hanno una presa così forte, sono così ben centrati su delle idee guida, sono raccolti, sostenuti, alimentati dal settore privato. Abbiamo delle grandi imprese, grandi istituzioni finanziarie, società industriali che hanno fornito, contribuito a questo progetto che si svolge in tutti gli Stati Uniti nel convincimento che la cultura sia la carta vincente per il paese. Ecco, non è soltanto arte e cultura in questo progetto. C'è un po' di tutto, secondo una struttura logica e propositiva molto articolata. C'è sicuramente arte, c'è molto pensiero politico, molta storia del pensiero italiano in tutte le sue dimensioni, ma con uno sbocco molto chiaro per quello che interessa la formazione delle prossime generazioni, i giovani, la ricerca, soprattutto l'innovazione e le tecnologie. Cioè noi partiamo dalle scoperte di Galileo e dalle scoperte anche del pensiero politico di Machiavelli per arrivare ai grandi premi Nobel che hanno fatto la scienza italiana in America, da Fermi a Dulbecco e a molti altri, e guardiamo al futuro della collaborazione nello spazio fra Agenzia Spaziale Italiana, Imprese Italiane e NASA, che è un unico a livello europeo, è un grande patrimonio per l'industria italiana e per la tecnologia italiana, a tutti i campi della scienza medica, delle biotecnologie, della farmaceutica e della costruzione insieme di brevetti e di possibilità per il futuro della nostra economia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato dell'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, dunque vi propongo Volare di Modugno nell'interpretazione di David Bowie, che pensate la canta in italiano. Di stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu. Poi d'improvviso. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!